Quindi gli argomenti, insomma, che andremo a chiedere a un architetto e a un esperto di comunicazione dell'associazione Backbow sono in che modo nelle loro professioni si occupano di sostenibilità. Se volete un attimo dirci, non so se vuoi cominciare tu Lorenzo o tu Fabio a raccontare un vostro background, una vostra area di studi per inquadrare un pochino la vostra prospettiva. Vado io, comincio io. Io sono un architetto, mi occupo di diverse cose nella mia professione e diciamo che sono molto interessato per comunque farla nei miei termini comprensibili, intendo anche per me, per poterlo spiegare semplicemente senza dover ammorbare di nozioni, e mi occupo di ambiente urbano, quindi spazi urbani e in generale sono afferente a quella sfera che si chiama urbanistica. Certo. E per cui ho un approccio verso il tema legato soprattutto a l'idea generale, la costruzione, la struttura in sé per sé del modo in cui noi viviamo. Certo. La nostra città, viviamo il nostro spazio urbano, viviamo il nostro contemporaneo, insomma, le nostre vite fondamentalmente. Quindi io ho questo tipo di approccio e poi faccio anche tante altre cose che sono costretto a fare, tipo lavorare in libera professione e altre simpaticissime cose che ovviamente non volevo a Coxo Spaziale a raccontare dell'urbanismo sostenibile c'è un branchio, posso dire, della sociologia urbana che mi ha sempre affascinato tantissimo, che forse c'entra anche con quello di cui stai parlando, no? La sociologia entra fortemente nell'ambito di trasformazione, rigenerazione e sostenibilità urbana, quindi siamo sempre a stretto contatto con come la società si evolve, come la società vive all'interno delle nostre città o all'interno dei nostri centri abitati. È fondamentale sapere e fondamentalmente interlacciare queste due tematiche, queste due branche, quindi socialità, sociale e urbanistica e architettura. Certo. Sono molto strettamente connesse. Anche perché all'inizio, quando una città è stata costruita, non c'era questo genere di numero di abitanti, non c'erano neanche questi usi e costumi che abbiamo oggi, no? Quindi, assolutamente, diciamo che le prime edificazioni o anche le prime strade che andavano a segnare la nostra quotidianità e lo scandire delle nostre attività erano pensate per un essere umano radicalmente diverso da quello che siamo oggi, no? Totalmente. Quindi totalmente. Poi il substrato che si è creato, la stratificazione di diciamo usi e costumi, abitudini e umori anche di un cittadino, lo si può vedere passeggiando per una città in un certo totalmente, modo, no? Totalmente. Ecco, quando cosa può voler dire questa, la butto lì prima di magari prima di sentire Marco Roma. Esatto. Che io sto fremendo. Lo so, ma io mi piace fare oggi la domanda prima, certo, di Marco. Cosa potrà mai voler dire questa parola che adesso risuona in tutti gli ambiti, in tutti gli ambienti, in tutti i settori e specializzazioni di sostenibilità? Cosa può voler dire in termini architettonici e urbanistici e anche sociologici? Okay. Essere e vivere o costruire o abitare in modo sostenibile una città. Ok, è una domanda un po' complessa, nel senso che richiede un po' di argomentazione in tal senso. La sostenibilità può essere vista sotto vari livelli fondamentalmente nella nostra professione. Dai livelli più tecnici, meramente pratici, cioè su come vengono gestiti meramente le materie da costruzione, la produzione, tutto il ciclo produttivo delle materie da costruzione e di riuso delle stesse, che è proprio il livello base tecnico, quello sui materiali iniziali su cui si fonda fondamentalmente la parte principale della professione. E via via andando verso una diversa strutturazione di come si vivono le città e soprattutto fino ad arrivare al livello massimo, che è quello insomma maggiore in assoluto per la sostenibilità, che è quello della limitazione del consumo di suolo. Ok. Sono tutti diversi livelli che partono dall'edilizia fino ad arrivare alla progettazione, alla programmazione urbana, che guardano all'idea di sostenibilità in maniera diversa, perché ognuno attiene a una scala particolare del proprio gestione, del proprio lavoro, tale per cui l'insieme di tutte queste pratiche fondamentalmente il progetto di sostenibilità. Quindi, dipendentemente dalla scala a cui la si vuole osservare, tante pratiche, tante anche diverse, possono parlare di sostenibilità. Io non mi addentrerò nella parte più meramente tecnica relativa ai materiali, perché ci sono le persone che sicuramente ne sanno più di me, hanno un controllo, una gestione sul processo qualitativo della materia prima e sulla sua gestione in maniera sostenibile, sia in senso produttivo che in senso riciclativo, soprattutto degli scarti. Poi, come ben sapete, l'industria edile ha uno tra gli scarti maggiori, certo, in ordine di produzione. E quindi ci sono tante realtà anche virtuose che in qualche modo si occupano della gestione dei rifiuti, per esempio dell'edilizia, e li riusano in varie maniere. Questo è un ottimo esempio di come si può creare le produzioni tecniche sostenibili. Oppure anche la scelta della qualità del materiale in sé per sé o del ciclo produttivo che ha avuto lo stesso, che può essere fatto a sua volta in senso di sostenibilità. L'edilizia pure è uno di quei grandi prodotti, di quelle grandi, scusatemi, come dire, industrie che fondamentalmente inquinano tanto quanto le industrie agricole, fondamentalmente. Per cui anche lì la modalità con cui si producono proprio i singoli materiali da costruzione o come vengono utilizzati può avere dei processi sostenibili. La cosa che per me ha dell'interesse invece riguarda la modalità con cui si vivono le città, quindi di conseguenza la modalità con cui noi siamo abituati a consumare o meno gestire il nostro suolo. Bellissimo. E sappiamo che ad oggi non è più sostenibile, appunto, occupare nuovo suolo per costruire. Okay. Certo. È fondamentale poter disporre del poco territorio che abbiamo in maniera intelligente, quindi fondamentalmente arrivare a un'ottica di riuso del suolo piuttosto che o dell'edificio piuttosto che di nuova costruzione, dico bene? Ormai le nuove costruzioni in senso lato si tendono sempre ad evitare, nel senso si tende di più a eliminare il consumo di suolo, quindi a, come dire, a far progredire la città. È chiaro che adesso questo andrebbe giustificato da un discorso un po' più ampio, però fondamentalmente l'idea è che abbiamo un territorio limitato, non solo in Italia ma in tante parti del mondo, e negli ultimi 50-60 anni l'espansione incontrollata dei centri urbani, piccoli e grandi che siano, ha dato adito a fenomeni di sprawl, ho dato fenomeni di sprinkling, come lo chiamiamo qua in Italia, cioè lo sprawl è l'espansione incontrollata dei territori urbani. Il più grosso esempio che si può fare di sprawl incontrollato e assolutamente inquinante e caotico è, non so, la città di Los Angeles, per dire, città del Messico, certo. Nuova Delhi, certo. Shanghai, megalopoli con urbazioni urbane gigantesche che fondamentalmente hanno divorato l'intorno, e per sostenere quelle quantità di città bisognerebbe avere dei pezzi di territorio enormi a sostegno. Certo, delle lande sconfinate. E non ce lo possiamo più permettere. Poi in Italia soprattutto abbiamo avuto un fenomeno un po' più piccole dimensioni che si chiama sprinkling, spruzzatina, se proprio, okay, si può dire, dove ovviamente abbiamo questo consumo di terreno molto a macchia, fondamentalmente a piccole macchie di leopardo, che in qualche modo hanno teso a devastare in un certo qual modo un tipo di ecosistema, da quello della pianura padana a cui siamo tanto abituati, e che vediamo fondamentalmente questa distesa incontrollata di campi, capannoni, case, esatto. Sì, sì. Senza una soluzione di continuità, ma anche fondamentalmente senza però una logica. Però continuano a costruire capannoni. Io che vado da Bologna a Torino in treno, certo, vedo costruzioni di nuovi capannoni. Incontrastatamente, sono d'accordo. Esatto. Il Veneto, la Lombardia soprattutto sono tanto piegati da questa tipologia. Anche l'Emilia Romagna non scherza. L'Emilia Romagna non scherza, no, non scherza davvero. Sì, sì. E nell'ottica invece di uno sviluppo sostenibile dell'urbanizzazione, dell'edilizia, bisognerebbe stoppare questa espansione incontrollata, questa edilizia fondamentalmente pirata, chiamiamola in qualche termine, certo, che ci piaga, e invece continuare a fare un discorso riguardante l'interno della modalità con cui viviamo, cioè a parte secondo me l'incentivazione di alcuni fenomeni centrativi, anche il riutilizzo di tante aree interstiziali che sono all'interno dei nostri centri abitati, che fondamentalmente ad oggi sono inutilizzate, vuote, rappresentano dei vuoti urbani, si chiamano fondamentalmente delle grosse ferite di città, dei grossi brani che avrebbero la necessità invece di essere ricollocati in un progetto generale di riqualificazione, affinché si smetta di utilizzare il nuovo territorio, si riprenda il territorio che già abbiamo, lo si ribalti fondamentalmente e lo si riqualifichi in maniera da avere città più compatte, più sostenibili, più a misura di persona, nel senso incastrate in un sistema infrastrutturale pubblico che è fondamentale, certo, per esempio per una città, e di conseguenza andando in qualche modo a rendere, certo, la vita più sostenibile. Adesso, certo, mi sono un po' dilungato, no, perché è un po' complesso come situazione. È un discorso assolutamente stupendo e adesso lo faremo, diciamo, sì, sì. Mettevo giusto una, sì, pausetta musicale. Scusate, so che qua. Marco Roma si è veramente voluto, caspita, in realtà questa è Ella Fans. Bella. Adesso la sfumiamo con Marco Roma, aspetta, buongiorno, questo piccolo messaggio che ti mando stamattina arriva dritto al tuo cuore. Io sono Marco Roma, ti amo, da Marco Roma. Wow. Buongiorno, Grande. Addirittura ti amo, è la prima volta che sento Marco Roma dire ti amo. Marco ormai Roma è innamorato, grande. Oh, ma tutti. Il nostro Marco Roma manda sempre questi buongiorni alla radio. Noi non sappiamo se lui ha capito che noi lo trasmettiamo sempre ogni lunedì. Okay. Però lui li manda in ogni caso. Okay. Anzi, ne ha mandato uno il 20 maggio e poi uno oggi. Secondo me ci ha sgamato. Ha cominciato a capire. Grande Marco. Anche noi siamo diventati i suoi fan. Esatto. Una nostra mascotte. Se un giorno in treno sentirò la sua voce, la faccia di Marco Roma. Esatto. Lui viene in un colpi. Se vedi uno che dice che al telefono, buongiorno. Sì. Ciao, vabbè, ti immagini. Sarebbe fantastico. Fare questa ricerca. Se vedete Marco Roma in giro, fatemi una foto. Chiedeteli un autografo. Potrebbe partire un contest bellissimo. Vero. Tu che ti occupi di comunicazione. Fabio Sola, adesso chiediamo. Dopo Lorenzo e mi sembra un po' complicato venire. Io sono solo con Roy, non è questo. No, è vero Lorenzo, poi torneremo con te a chiederti delle altre cose perché hai aperto dei discorsi troppo interessanti. Però sentiamo un attimo che cos'è Backbow e cos'è questa esperienza che avete iniziato a Bologna qualche anno fa. Sì, con esattezza nel 2018. Grazie a Pietro Ceciarini, il nostro founder, e grazie poi a Marta Carboni che si è unito a lui pochissimo dopo. E, diciamo, l'idea è nata da quella che era l'esperienza di Pietro in Germania, e quella che è tutta l'esperienza relativa al vuoto a rendere, che sappiamo che nei paesi del nord Europa. Voglia di partire. Sappiamo, nei paesi del nord Europa è abbastanza avanzato, insomma, è un modello che viene portato avanti da un bel po', cercando di replicarlo qui a Bologna, una volta tornato, insomma, alla sua alma mater. E, lui ha studiato, Pietro? Pietro è un ingegnere gestionale. Ha fatto l'Erasmus in Germania. Esatto, stava seguendo poi un progetto lì, da Berlino. E l'idea quindi di Backbow era quella di Backbottle, quindi dei vuoti a rendere che ti tornano indietro. Purtroppo dal punto di vista legislativo l'Italia è ancora un po' indietro da questo punto di vista, e quindi è tutto normato, insomma, molto circoscritto. Il progetto si è tramutato in mettiamo a disposizione bicchieri, sia Backbottle sia Backbologna. Bologna, esatto, e mettiamo a disposizione dei bicchieri, quindi partendo dalla città di Bologna, quindi anche cercando di localizzarci molto, certo, per renderlo anche più sostenibile, bicchieri per eventi in qualche modo il più possibile zero waste, e da lì quindi abbiamo cominciato a crearci la nostra rete e siamo anche cresciuti proprio dal punto di vista numerico. Paradossalmente siamo diventati tanti proprio durante il lockdown, quindi io sono entrato in Backbow alla fine del 2019, ottobre-novembre 2019. Certo, giusto prima del Covid. Esatto, tra l'altro appena prima del Covid abbiamo preso possesso, tra virgolette, del nostro spazio, il nostro laboratorio che è da Dumbo, e quindi nel momento in cui Dumbo aveva praticamente inaugurato i propri spazi ci siamo trovati a essere tutti chiusi in casa, quindi non poter portare avanti tutte le iniziative. La volta però, che lo spazio ce l'hai, tac. Esatto. Però paradossalmente, come dicevo prima, siamo cresciuti in questo, proprio nel periodo del lockdown, certo, siamo praticamente raddoppiati in numero, e questo devo dire anche con un po' di vanto, anche grazie alla comunicazione che abbiamo portato avanti. Sappiamo che è un periodo in cui tantissimi erano sui social, erano online, passavano così il loro tempo, e quindi abbiamo avuto modo anche di fare un po' di recruitment. Quindi è stata la tua occasione veramente perfetta per spingere la comunicazione. Esatto, magari avrei preferito un'occasione più lieta da questo punto di vista, però abbiamo avuto modo di darci una nuova spinta, e poi con la fine del lockdown, durante l'estate del 2020, abbiamo portato avanti le nostre iniziative all'interno di Dumbo. Abbiamo detto dei bicchieri, quindi noleggio di bicchieri per eventi zero waste. Ormai da tanto tempo collaboriamo con il Centro della Pace in Pratello o con il Centro 2 Agosto in via Saragozza, e che sono ormai i nostri sponsor da tanti anni, utilizzano i nostri bicchieri per tutti gli eventi che portano avanti. Un locale che utilizza i vostri bicchieri, che cosa significa? Vi noleggia, vi acquista? Esatto, ci sono diverse formule. Può tanto acquistarli, quindi ce li commissiona, noi ovviamente facciamo in modo da procurarli tramite dei fornitori, non siamo certo noi a produrli, anche perché non sarebbe possibile farlo con la plastica riciclata per come possiamo intenderlo noi, e poi fornirli, e magari personalizzati, magari no, quindi magari con il nostro logo. Certo. e con l'ottica sempre di portare avanti questa idea di eventi zero waste. Poi il locale li utilizza, quindi il fruitore, esatto, sì. Il cliente prende, lo dico per giusto per illustrare ai nostri ascoltatori tutto il processo, no? Il fruitore dell'evento va al banco, si prende una birra, un bicchiere di vino, lascia un euro in più, perché così è stimolato a restituire quel bicchiere. Se vuole tenerlo, lo tiene. Quindi il meccanismo è questo. Certo. E tra l'altro abbiamo portato avanti una sperimentazione alla fine dell'anno scorso grazie a un bando europeo e in tutto il Pratello. Molti non hanno tenuto poi i nostri bicchieri, però abbiamo notato che hanno cominciato a utilizzare, invece del vetro, invece della plastica monouso, i bicchieri di plastica riutilizzabili. Certo. Che sono, rispetto al vetro, anche più gestibili. Certo, perché non si rompono, perché possono essere tenuti fuori anche con le nuove normative dei locali, che magari il vetro non può essere utilizzato fuori. Esattamente. Ok, e da qua, quindi dal fallimento, tra virgolette, delle bottiglie, della normativa italiana, che questa veramente non te la chiedo neanche, però mi ha scandalizzato come tipo di muro. Da qua si va in pubblicità. Vai. Scusa. Ah no, giusto, scherzi. Sì, sono... Parliamo male del governo in pubblicità. Ok, esatto. Corso spaziale. Corso spaziale. Eccoci o no? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Bene, bene, bene, bene. Allora, su. Eccoci, adesso ci siamo. I nostri bellissimi jingle. Grazie alla pubblicità per aiutarci a finanziare tutto questo. Fondamentale. Esatto. E quindi stiamo parlando di pratiche sostenibili su Cox Spaziale con architetto Lorenzo Tucci e Fabio Sola di Backbo. Ma ci sono tantissime attività che questi due illustri ospiti ci stanno raccontando quando c'è la pubblicità e quando ci sono le musiche. Ecco. Come faremo a raccontarle tutte in quest'ultima mezz'ora? Non lo so, se vuoi rimetto Stefano. Le pubblicità così le riraccontate. No, fanno tantissime cose. Possiamo dire già un sito di Backbo, per esempio, così se non riusciamo a dire tutto, le persone andranno a verificare tutto quanto lì. Allora, su backbo.it ci sono tutte le informazioni con tutte le unit in cui siamo organizzati, quindi abbiamo sì quella relativa ai bicchieri e agli eventi, abbiamo anche quelle relative ai workshop. Che è un'altra branchia estesissima. Esatto, utilizzando i macchinari autocostruiti. Tramite progetti forniti da una rete, da una community che si chiama Precious Plastic, di cui facciamo parte. Noi a Bologna quindi siamo punto Precious Plastic, abbiamo autocostruito questi macchinari che ci servono più che altro poi per l'erogazione di questi workshop di sensibilizzazione. Cosa facciamo con questi macchinari? Abbiamo un iniettore, un estrusore, una pressa, abbiamo un forno. Non facciamo altro che utilizzare della plastica riciclata per darle nuove forme, quindi passare dall'usa e getta all'usa e riusa. Plastiche, nello specifico, che sono polipropilene e polietilene alta densità. Quindi, per farvi un esempio, l'HDPE è la plastica che solitamente viene utilizzata per i tappi delle bottiglie. Il polipropilene lo utilizziamo per viene utilizzato per i flaconi dei detersivi, degli shampoo. Quindi, per darvi un'idea, certo, proprio dal punto di vista degli oggetti. Differenza. Sì, sì, sì. E sono delle plastiche che sono utilizzabili praticamente all'infinito, quindi vengono fuse e cerchiamo di dargli nuove forme con degli stampi oppure magari con l'estrusore tramite un filamento. E quindi più che una produzione di oggetti, il tutto è poi veicolato verso una sensibilizzazione, quindi far conoscere proprio quanti tipi di plastiche esistono, come vengono trattate anche sia dal punto di vista industriale che anche dal punto di vista artigianale, quello che possiamo fare noi, che quindi non possiamo trattare tutte le plastiche. Quali sono le plastiche che non possono essere trattate per essere riutilizzate? Beh, ci sono delle plastiche, ad esempio anche lo stesso PET delle bottiglie, che tende a logorarsi, a perdere delle qualità ad ogni passaggio. Sappiamo che quando abbiamo delle bottiglie d'acqua in PET, spesso e volentieri queste diventano magari del pile, diventano dell'altro, hanno altre forme. Questo perché perdono alcune delle loro caratteristiche. Certo. Ma perché esistono così tanti tipi di plastica? Perché la plastica è un materiale davvero versatile. Quando è nato, quando è stato, diciamo così, sintetizzato dal petrolio, è stata una svolta, perché sicuramente sia da un punto di vista dei costi che da un punto di vista della versatilità è stata una rivoluzione. Il problema è che si è arrivata a una produzione smodata di plastica e soprattutto un errato smaltimento, tant'è che ancora oggi sulle nostre spiagge, per fare un esempio, purtroppo troviamo ancora degli oggetti di plastica vecchi anche di 50-60 anni, sì, anche sì. Più. Caspita. E quindi la cercare di trasmettere questi concetti partendo dai più piccoli, perché spesso e volentieri i nostri workshop sono rivolti poi ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti che magari non hanno coscienza di tutto questo, insomma, l'obiettivo è quello di essere magari una piccola goccia nell'oceano, ecco, da questo punto di vista. Certo. Io vi chiedo quanto funzionerà, perché se ci penso, questo tipo di workshop io l'ho fatto tipo a 8 anni, adesso che ne ho 52. Caspita, comunque ci vedo la gente che si comporta esattamente come 50 anni fa, capito? Per cui io credo che fino a che non entri nel portafoglio delle persone, per cui ti diventa meno dispendioso comportarti in un certo modo, credo che non arriveremo da nessuna parte. Anche a livello così di come in architettura, no? Cioè fino a che costruire un capannone nuovo costa la metà, non la metà, comunque costa meno che ristrutturare uno vecchio. Io certo. Credo che la maggior parte delle persone, cioè delle aziende, certo. Costruirà un capannone nuovo. Certo. E dunque è un casino questa cosa. Cioè, o si legifera su questo, secondo me, oppure come il packaging, cioè voglio dire, io come tutti, sì, sì. Andiamo al supermercato, torniamo dal supermercato e metà del packaging sì. lo buttiamo immediatamente, sì. capito? Sì, sì. Cioè, proprio nel momento in cui torniamo a sì. casa ci sono già dei prodotti di cui buttiamo il packaging. Cioè, bisogna fare una legge sul packaging, su questo io non ho dubbi proprio. Cioè, non... Quanta plastica utilizziamo? È un'annosa questione, c'è questo. Sempre. Come dire, gruppi di pressione, sono, esatto, contro. poteri forti, detto sì. no? Cosiddetti sì, poteri sì. forti, che sicuramente preferiscono questo, però non possiamo andare avanti così, su questo non c'è dubbio. Però rispetto al passato sicuramente c'è tanta consapevolezza in più. Una volta davvero non si aveva discernimento da questo punto di vista, oggi è quasi una scelta inquinare, cioè veramente potresti scegliere di fare delle scelte diverse, più consapevoli. Certo. E tant'è che insomma, proprio perché mi occupo di comunicazione, anche nel marketing spesso e volentieri ormai si comincia a strizzare l'occhio. Si parla molto spesso di greenwashing per alcune aziende sì. conosciamo bene, però in realtà ci sono delle realtà virtuose. Quello che tendiamo sempre a premiare anche come Backbo è sempre il piccolo, è sempre il locale, anche nella nostra rete che abbiamo cercato di creare negli anni. Andare sempre a cercare di coinvolgere piccole realtà locali e insieme fare rete, perché poi quando sei piccolo fare rete ti aiuta a emergere rispetto al grande. E questo è un approccio che posso dire che è sostenibile, cioè non dimentichiamo che sostenibilità significa proprio sostenere la base, no? Certo. E quindi nel momento in cui tanti piccoli si mettono a fare rete è secondo me la risposta veramente che può cambiare poi ad arrivare anche a magari una legislazione o un cambiamento radicale, perché come dicevi tu Stefano, fin tanto che non risparmiamo né soldi né tempo, è molto difficile iniziare a ragionare in modo diverso, però fin quanto invece ci sono tante realtà che si mettono insieme e costruiscono un'energia virtuosa, un'occasione di scambio, cioè anche semplicemente il fatto di dire io ho questa cosa, non so, io la scatola di shampoo, non ho idea, non ho tempo, però so che il mio amico, la mia amica, il mio vicino va, riusa, lo utilizza o usa degli shampoo solidi magari degli shampoo solidi anche lì per rispettare ancora di più l'ambiente, e anche perché tutti gli shampoo liquidi sono inquinanti per l'ambiente. Praticamente sì, quelli sì. prodotti a livello dalle grandi industrie che conosciamo. Sì. Vedi, cioè queste informazioni passano anche con gran passaparola, no? Di virtù. Esatto. Il bagno schiuma rispetto al sapone. Sì. No? Sì, sì, sì. Chi è che usa il sapone per lavarsi? Ormai nessuno. Ma questi sono esempi proprio base. Sì. Però diciamo che nell'esperienza di Backbone. Però di tutti i giorni. Sì, fanno la differenza. E nell'esperienza di Backbone ci rendiamo conto che sono proprio i ragazzi, le nuove generazioni, essere quelli più sensibili all'argomento. E cioè ti dico dai 30 anni in giù. Sono i ragazzi che solitamente si approcciano più facilmente a queste tematiche rispetto magari a gente un po' più adulta. Altra cosa che abbiamo notato, e questo ci ha dato l'occasione poi per organizzare una serie di incontri l'anno scorso che pensiamo poi magari di replicare se ci sarà la possibilità, anche la sostenibilità economica da questo punto di vista, e andare a riscoprire le abitudini dei nostri nonni e dei nostri... Io ho partecipato a questo workshop, il Vets Lab, posso dire? Lab. Fighissimo. Fantastico. Veramente bellissimo. Mm-hmm. Bellissimo. Perché già esistevano delle abitudini di uso e riuso che poi sono andate perse proprio perché appunto, ad esempio, con l'avvento della plastica magari sono cambiate delle abitudini. Sappiamo tutti che una volta la bottiglia di vetro del latte la lasciavi da parte e passavano, la ritiravano, te ne davano un'altra piena e così via. Ma non solo, anche come utilizzare al meglio la terra, quindi come coltivare al meglio il proprio orto, come creare dei cosmetici in casa molto semplici, tutta una serie di pratiche, consigli che dei nonni, sono andate un po' perse, ma che prima una volta erano la prassi, ecco. Deep, deep into my skin. Show me the way. Un po'. Attenzione, però mi piaceva molto lounge. No, infatti c'è ancora. La stavo abbassando. È Little Green, eh? Adoro, sai che ho passato tutta domenica ad ascoltarmi Little Green, a disegnare con Little Green. Fantastico. Bello, bello, bello. Però la interrompiamo lo stesso, perché parte l'angolo della menzione. Chi comincia? Io? Tu, perché io lo sto aprendo. Ah, ecco, perfetto, aspetta. Allora, mercoledì 25, che è dopodomani, dalle 17.30 riparte Video Art Yearbook, la 15ª edizione. Dopo 2 anni di sosta dovuta alla pandemia, quest'anno si terrà per la 15ª volta, dall'ormai lontano 2006 di partenza, la rassegna Video Art Yearbook, l'annuario della video art italiana. Il progetto, unico in Italia nel suo genere, è condotto quest'anno da un rinnovato gruppo di ricerca costituito da Renato Barilli, Piero De Giovanni, Pasquale Fameli e Silvia Grandi. Questo è al Dams Lab La Soffitta, l'Università di Bologna, piazzetta Pierpaolo Pasolini 5B a Bologna, e questo è mercoledì dalle 17.30. Mentre giovedì 26 maggio dalle 18 alle 22 Andrea Marco Corvino con la mostra intitolata L'Ascella del Sole a Galleria Più in via del Porto 48AB. Rifacendosi alla pittura su roccia tipica dell'antico popolo sudafricano, Andrea Corvino, in arte LOL 63, realizza per Galleria Più un murales di grandi dimensioni, visibile dalla vetrina della galleria, che racconta in chiave epica la leggenda dell'origine del pianeta. La scella del sole è un mito dei Boschimani che vuole spiegare come ebbe origine il mondo, quali funzioni siano assegnate agli astri e quale sia il ruolo degli agenti atmosferici. Poi sabato 28 maggio alle 19.30 nella Galleria e Stamperia d'Arte Squadro di Bologna sarà inaugurata l'Amica Geniale, mostra personale dei disegni di Mara Cerri tratti dalla graphic novel omonima appena pubblicata da Coconino Press Fandango con i testi di Chiara Lagani, non lo so. In esposizione ci saranno disegni originali, serigrafie in tiratura limitate e le autrici saranno presenti all'inaugurazione. Questo è Squadro in via Nazario Sauro 27 a Bologna. Eccolo. E ancora sabato 28 maggio dalle 19 Time Lapse, 4 anni di arte contemporanea alla Casa della Cultura Italo Calvino, a cura di Adia Cienze, con le opere di Andrea Abbatangelo, Carolina Cappelli, Esther Grossi, Elisa Muliere, Stefano W. Pasquini, Petri Paselli, Manuel Portioli, Laura Renna, Stefano Ronci, Guido Segni, Agnese Spolverini, Giulio Zanet o Zanè, presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno in via Roma 29. Yeah. Naturalmente, appunto, appena hai detto il mio nome è partito l'aereo che mi ha cancellato. Comunque va benissimo così. No, non è vero. Stefano W. Pasquini. Sai com'è il conflitto di interessi, però dai, una super collettiva a Calderara, dovete venire. Ci sta. Poi bene. Calderara è il nuovo place to be, no? È il nuovo place to be. Non è più Roanoke, Virginia, da dove trasmette Radio Peng, che salutiamo perché siamo ospiti anche loro. Sapete che siamo su Radio Peng da un paio di lunedì. Sì. Ah. Quindi tutti ci stanno ascoltando anche dal Virginia. È una web radio, per cui ci ascoltano a Londra, anzi salutiamo gli amici di Radio Peng a Londra, che so che sono un nutrito gruppo, e anche tutti quelli negli Stati Uniti. Stupendo, no? Mm-hmm. Hi everyone. Ci sta. Bene, continuiamo a parlare di sostenibilità. Fai tu qualche domanda, Stefano, perché io non so più cosa chiedere a chi, perché ci sono troppe cose da sapere. No, a me fa molto piacere che voi pensiate che ci sia un riscontro positivo generazionale in tutto questo. Sì, secondo me sì. Cioè, okay. Secondo me le generazioni nuove sono più improntate, giustamente, come si stava dicendo prima, non mi ricordo se l'avevamo detto fuori onda, andarsi in onda, secondo me essere sensibilizzate su questo tema, e secondo me sono più... è più intriso, secondo me, nel dialogo attuale, nel discorso attuale che si sta facendo. Comunque ormai se ne parla da tanto tempo, la sostenibilità. Considerate che almeno quando io ero uno studente se ne parlava già di questi argomenti, cioè di come rendere sostenibile tante cose. Scusatemi, certo. Tanti aspetti della nostra vita. Tu lo vedi anche negli spazi architettonici, nelle lotte magari per riutilizzare, riabitare uno spazio tolto all'uso quotidiano. Io sì, lo vedo in tante realtà anche di Bologna, anche prima se ne stava parlando fuori onda. Secondo me c'è stata tutta la problematica relativa agli spazi occupati che sono stati sgomberati, che secondo me era fondamentale invece da tirar fuori. Noi abbiamo, nonostante la virtuosa, civilissima, sensibilissima città di Bologna, che comunque rispetto a tante altre città fa molto bene, certo. Guardiamo Milano, è già più problematica, però nel senso, il problema degli spazi occupati, cioè tutti questi capannoni, queste caserme, questi anche palazzi storici che fondamentalmente sono vuoti, hanno un vuoto di significato, hanno un vuoto culturale e hanno anche un vuoto fisico, cioè fondamentalmente sono rimasti abbandonati. È chiaro, sono di qualcuno, vengono utilizzati però in maniera corretta, cioè dandoli alla collettività, ovvero trasformandoli in spazi veramente di aggregazione urbana, di aggregazione sociale, dove ci si può andare, ritrovare e dove si può contribuire veramente alla vita sociale e cittadina. Certo. Altri spazi che sono stati sgomberati, come il Labà o l'XM, che hanno trovato nuove location, comunque avevano, secondo me, portato un'esperienza dal basso, in tal senso che noi come architetti secondo me dobbiamo in qualche modo riconoscere come forza centrale, cioè anche l'esperienza dal basso, le esperienze che in qualche modo sono partecipative, ok, hanno da dirci qualcosa. Poi chiaro, noi possiamo curare la qualità architettonica, cioè la qualità dello spazio in sé per sé, però dobbiamo sentire le persone che veramente vogliono utilizzare questo spazio, che veramente vogliono utilizzarlo e viverlo, che siano associazioni di quartiere, che siano associazioni culturali, che siano anche, perché no, anche proprio funzionari governativi, non c'è problema. L'importante è dare, secondo me, riuso, riprenderci parti della città e tornare in qualche modo a viverla in maniera sostenibile davvero. A livello legislativo è un delirio fare una cosa del genere? A livello legislativo no, non è un delirio. In realtà qui c'è, ci sono dei problemi di speculazione edilizia, del fatto che c'è anche un problema di acquisti di terreni, di presenza di alcune società che hanno acquistato palazzi, brani di città, eccetera. C'è tutto il problema legato alla gentrificazione, certo, che è molto assillante fondamentalmente, e noi lo vediamo tranquillamente, cioè Bologna nonostante tutto ha un problema di gentrificazione totale. Mm-hmm. E quindi in realtà le normative ci sono anche perché ovviamente c'è stata una continuità normativa legislativa anche governativa fondamentalmente molto grande, però nonostante tutto non si sono mai attivate queste politiche. E secondo te è una cosa che può, cioè come si può cambiare questa tipo di dinamica qua? Deve partire da che tipo di spunto? Da qualche bando, da qualche scelta presa di posizione di architetti, come si può cambiare questo stato delle cose? Guarda, secondo me quello che è mancato attualmente, o che sta mancando comunque, è il censimento degli spazi vuoti, cioè un grande catalogo, certo, decalogo, dove fondamentalmente si mette a pubblica disposizione questi spazi. Ce ne sono tantissimi e le normative per esempio prevedono che nel momento in cui si voglia fare un progetto di questo tipo in uno spazio abbandonato ci siano tutte le disponibilità del caso, proprio le normative specifiche urbanistiche danno tranquillamente adito alla fruizione di questi nuovi spazi. Peraltro molte volte impediscono per esempio la speculazione edilizia edita tipo la trasformazione in senso commerciale di alcuni spazi, certo, ma molte volte invece proteggono alcuni spazi e dicono va bene, facciamo una destinazione culturale per esempio, certo, oppure diamo nuova vita e riqualificazione a questi capannoni abbandonati, questi, certo, spazi abbandonati. Però secondo me dovrebbero esserci due spinte grosse. La prima è quella per il quale si possa e che deve per forza venire dall'alto, e tale per cui si possano riqualificare tutti questi spazi in housing per tutti. Certo. Che è uno degli altri problemi secondo me che abbiamo in città, ovvero l'edilizia abitativa volta a tutti, cioè anche alle, certo, fasce meno abbienti, e cosa che invece è stata totalmente ignorata, e questo lo deve per forza fare, certo, deve venire per forza, certo, dall'alto, perché ha bisogno proprio di quei finanziamenti e fondi che non esisterebbero. E dall'altro lato invece bisognerebbe veramente super invogliare i bandi per la gestione di questi spazi abbandonati in senso culturale. Mm-hmm. Alcuni ci sono. Alcuni ci sono, alcuni sono stati fatti. Mi viene, sì, a pensare al treno della barca, no? Che c'è, sì, c'è stato un, sì, bando da poco, sì. Sì. Sì. Proprio per, sì, per dare questi negozi che di fatto non vengono più utilizzati da nessuno per spazi per culturali. Spazi, sì, associazioni culturali che abbiano voglia di gestirli. Ah, wow! Quello è positivo. Sì, infatti. Molto, molto. Anche perché ovviamente molti di questi edifici hanno bisogno di una grossa cura, manutenzione, che, certo, appunto da un punto di vista economico potrebbe essere in qualche modo refrattario per una persona, per un'associazione entrarvici. Però magari avendo degli incentivi in tal senso si potrebbero davvero in qualche modo cambiare. Ne abbiamo ancora un po' di fare, però. Chiaro. Ci si poi prova. Cioè, ci sono delle zone di Bologna che in effetti sono difficili. Cioè, penso appunto al treno della barca. Cioè, obiettivamente. Tu vai là come associazione culturale, però poi come ti sostieni, magari in quel, sì, senso? Esatto. Cioè vai là e. Cioè, lì sei in mezzo al nulla praticamente. Cioè, non in mezzo al nulla, però in un quartiere residenziale di un certo tipo, che comunque secondo me avrà molta poca attenzione a quello che tu farai, qualunque cosa tu voglia fare. Certo, capito? Certo. Poi auguri, in bocca al lupo a chi a chi decide di farlo, eccetera. Ma sì, infatti è importante il coinvolgimento della popolazione locale, cioè quello deve essere fondamentale in qualsiasi tipologia di progettazione, anche di interventi randomici, cioè di interventi proprio non relativi per forza alla mia materia afferente, ma certo, proprio interventi relativi al benessere comune. Cioè è fondamentale coinvolgere la località. Sì. La località si intende proprio anche le persone che vivono quel quartiere lì. Sì. Che hanno sicuramente, per esempio, quelli della barca sono stati assolutamente lasciati privi di qualsiasi servizio, fondamentalmente. Sì. E peraltro un quartiere, va bene, periferico, ma attaccato alla città, certo, veramente a un passo dalla città. Mm-hmm. E secondo me invece ci sarebbe anche una certa voglia di riappropriazione, cioè di avere degli stimoli per viverlo in maniera serena in quartiere, in maniera buona. Considerate che adesso, almeno per quanto riguarda la barca, addirittura, cioè, è il prossimo quartiere da rigentrificare, secondo il comune. Infatti, sì, sì, per sì. Cui... infatti, certo, anche perché appunto è molto centrale e poi è bello, cioè c'è molto verde. Inoltre, vabbè, è uno dei vortici che è candidato per l'UNESCO. Addirittura. Sì, quello del treno, sì. Wow. Caspita. Vabbè, ma quello è un bene culturale, proprio testimoniale. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sotto la soprintendenza. Quindi, vabbè. Detto questo, sono particolarmente affezionato. Ci sta finendo il tempo. Scusate, prendo sempre il tempo. No, bisognerebbe parlare. Vabbè, possiamo sforare un po', dai. Tantissimo. Parla. Però, no, mi piace moltissimo questa cosa. Mi piace moltissimo questa cosa di veramente riconnettere l'esigenza dell'individuo con l'abitazione della città. Perché una cosa così. Che ho sempre sostenuto e pensato che anche la propria casa non è soltanto le quattro mura dove vivi, ma è anche la scala del condominio, dell'edificio, è anche la strada che sì, arriva, è anche il profumo dei fiori che sbocciano in primavera in quella strada, o sì, la mancanza di un marciapiede e quindi, esatto, l'ansia di, no? Esatto. E questa cosa l'abbiamo, secondo me, molto dimenticata, perché la mia percezione è proprio di spostarsi da un luogo all'altro eliminando la parte di transizione, no? La transitorietà tra un'attività e un'altra, un luogo e un altro. E invece, andando a ragionare di nuovo sul nostro vivere in transito, andiamo a pensare a tutte quelle cose, edifici, città, mm-hmm, architetture e anche oggetti che transitano da un utilizzo all'altro, no? Mm-hmm. E mi piace pensare a questa metafora di, no? Di veramente stare nel momento e non soltanto da A a B e chi se ne frega come ci arrivo. Sì. Fabio, volevi dire qualcosa? Nella nostra esperienza, per quanto riguarda i quartieri di Bologna, dicevi tu prima, l'esperienza di Vetslab ci ha dato modo di conoscere luoghi di aggregazione in diversi quartieri di Bologna, e erano fondamentalmente centri ancescao, quindi gestiti poi dagli anziani del quartiere, e però insomma sono centri molto vissuti dal quartiere, sono veramente centri di aggregazione molto vivi da questo punto di vista, in cui vengono portate tante iniziative, c'è molta proattività e quindi c'è un terreno fertile sicuramente da coltivare da questo punto di vista. Non è un terreno arido, quello di Bologna soprattutto, è portato avanti anche dal forte associazionismo che c'è, e quindi c'è sempre voglia di fare e di fare cose utili, concrete, e di mettersi insieme soprattutto, che può essere molto importante perché ognuno ha le proprie specificità, metterle tutte insieme, sì, può portare quel valore aggiunto poi sia a livello di quartiere che di città. Io mi sogno, io ho questo sogno di avere uno spazio enorme, o no, però nel senso enorme a livello così emotivo, dove ogni partecipante sia, non so, un artista, un architetto, un esperto di comunicazione, anche qualsiasi tipo di ruolo, di modo che i progetti che vengano fatti da tante prospettive diverse. Esatto. Perché penso che sia fondamentale. Guarda, io ti rubo giusto un secondo per dire una delle esperienze che avevo vissuto più interessanti ultimamente, poi è andato un po' a scatafascio, però voi avete presente il giardino Pinkerle? Sì, quello dietro. È un fazzolettino di terra dietro Casa Galvani, dietro via Marconi. Sì, certo. Okay. Mm-hmm. tacciato da tutti i giornali come il luogo insalubre, esatto, dove passare. Qualche anno fa un insieme di associazioni culturali, tra cui c'era Civico 32, tra gli altri, aveva indetto fondamentalmente una progettazione dal basso e aveva coinvolto cittadini, persone che vivevano nel quartiere, il liceo Minghetti di fianco, e coordinati da Garbo, che erano i giovani architetti di Bologna, si chiamava proprio così l'associazione, e avevano proprio fatto dei survey, dei sondaggi a tutte le persone che frequentavano quel parco, a tutte queste associazioni, dicendo che cosa che vi piace, che cosa che non vi piace, che cos'è che vi può turbare, quali sono i pro o contro di vivere questo spazio, eccetera. E avevano fatto veramente venire fuori una progettazione partecipata, tale per cui c'erano proprio delle grosse richieste, e tale per cui questo parco, assorbendo queste informazioni e venendo sistemato secondo queste informazioni, sarebbe potuto essere ridato alla città, fondamentalmente. Ad oggi è un po' privato la città, soprattutto perché è un parco chiuso, sì, si chiude verso l'esterno, eccetera. E abbiamo lavorato a questo progetto, perché poi noi siamo stati vincitori del concorso di progettazione in sé per sé, cioè quindi noi come architetti siamo arrivati alla fine di tutto il processo partecipativo. Certo. E abbiamo assecondato proprio nel nostro progetto quello che la cittadinanza voleva fare, certo, per quello spazio. E ad oggi ho visto che sono iniziati i lavori per farlo, dopo abbiamo vinto 5 anni fa. Wow. Ovviamente non ci hanno chiamato. Ah. Però va bene, noi gli abbiamo dato il progetto, quindi ho visto che lo stanno facendo come l'avevamo fatto noi. L'importante è che lo faccia. L'importante è che lo facciano, infatti. Adesso sono curioso, perché io ci vivo lì. Ah, ecco, vedi. Vivo a Morgagni. Ah, beh, ok. Quindi perfetto, sei stato uno di quelli intervistati. Non sono stato intervistato, ma perché 5 anni fa non vivevo lì. Ecco. Era nell'ormai gentrificata bolognina, 5 anni fa. Detto questo, il nostro tempo è finito davvero, per cui io vi ringrazio tantissimo, Lorenzo e Fabio. Grazie mille. Che dire, non lo so, vuoi una chiusa mia? Sì, dai, mettila al direttore. Ah, ok, no, non so, pensavo che volessi dire qualcosa tu. Vi lascio con una canzone dei Maisy, che mi ha donato Riccardo Lolli, che ringraziamo, e anzi dovete ascoltarlo. La sua trasmissione si intitola Uova, Sode e Noci ed è giovedì a mezzanotte. Wow. E poi naturalmente appunto vi lascio con le parole del nostro direttore. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20. E lui dice così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Molto importante, yeah. Se tutti i popoli del mondo abbandonassero per sempre il loro cibo, la loro musica, il loro cinema, la loro cultura, le loro tradizioni, i loro vestiti e le loro festività, e adottassero nuovi cibi, nuove tradizioni, nuove musiche, uguali per tutti, per tutti uguali, senza caratterizzazioni particolari. Penso che diventerebbe semplice in fondo il dialogo fra tutti gli abitanti del mondo. Nessuna guerra, nessun contratto, né religione, anche uno. Nessuna guerra, nessun contratto, sono sicuro, sono sicuro.